CRM Linea Sport, in linea con lo sport. Un buon pomeriggio e ben ritrovati qui su CRM per quanto riguarda questo appuntamento con lo sport. Noi siamo stati fermi una settimana, non ci siamo sentiti martedì prossimo, ma eccoci qua pronti per iniziare un nuovo appuntamento con lo sport, soprattutto in questa settimana veramente eccezionale per lo sport cefaludese, in quanto sono iniziati i playoff e le nostre due maggiori squadre, sia per quanto riguarda il basket che il calcio, hanno superato questa fase e si apprestano al prossimo turno. Poi ancora una cosa importante, anche un altro avvenimento che ci interessa da vicino per quanto riguarda il volley, perché la Costa Verde Cefalù si avvicina a quelle che potrebbero essere i playoff per il loro campionato. Dunque lo sport cefaludese questa settimana alza la testa e speriamo che continuiamo in questa avventura di successi e risultati, arrivando almeno a qualche bella promozione in categoria superiore. Noi avevamo invitato qualche settimana fa anche l'assessore allo sport, speriamo di averlo la prossima settimana, anche perché così vedremo un attimino cosa succederà domenica negli incontri che appunto le due compagini, maggiori compagini cefaludesi, cioè la S Basket Zannella, anzi la S Zannella Basket di Cefalù, oggi presente qui con noi il presidente Totò Marsala, lo abbiamo voluto fortemente dopo due settimane di assenza. Dicevo, speriamo di avere anche il rappresentante più importante, diciamo, essendo l'assessore allo sport, qui con noi martedì prossimo per parlare di queste realtà e come vanno soprattutto aiutate queste realtà cefaludesi, visto i problemi che lo sport cefaludese ha in questo momento, sia a carattere economico sia anche a carattere strutturale. E infatti abbiamo avuto l'ultima chicca, l'ultima ciliegina sulla torta, quella del basket, in quanto dopo un campionato disputato in via Aldo Moro al palazzetto, se non vado errato, Ignazio Cefalù, praticamente adesso da due partite, proprio le partite più importanti, dove i giocatori, ma ne parleremo col presidente Totò Marsala, dicevo, dove i giocatori praticamente ormai quella era la loro casa, sapevano millimetro per millimetro il parquet di quella struttura, invece si sono dovuti adeguare al Palatricoli, che è una struttura bellissima, non lo mettiamo in dubbio, però chiaramente ogni squadra quando gioca in casa ha le sue piccole situazioni nel proprio campo di gioco. Di conseguenza adesso ne parleremo con Totò Marsala. Oggi ci occuperemo appunto di basket, di calcio, di pallavolo. Strano che il nostro Angelo Matassa non sia presente per quanto riguarda il nostro angolo dell'automobilismo, forse impegnato, non so, oppure arriverà fra qualche minuto, non lo so. Noi siamo qui, lo aspettiamo chiaramente, se arriva, se no poi di automobilismo parleremo la prossima settimana. Allora, noi abbiamo con noi, e lo salutiamo, Totò Marsala. Presidente, eccoci qua, avevamo detto che dovevamo incontrarci dopo la terza partita e questa terza partita è arrivata, un bel successo chiaramente della squadra cefaludese. E allora parliamo di questa partita, tanto per iniziare, Totò, io ho detto che i ragazzi stanno cominciando pian pianino ad abituarsi a quella che è la loro nuova casa, provvisoriamente sappiamo, perché Totò ha intenzione di ritornare nuovamente al palazzetto Ignazio Cefalù. Comunque Totò, vogliamo parlare intanto di questa situazione, come va? Intanto i ragazzi si stanno abituando, stanno cominciando a prendere confidenza con questa nuova struttura, oppure ancora qualche piccola difficoltà c'è da superare? Intanto buongiorno e buonasera a tutti i radioascoltatori. Ma guarda, non è facile giocare al Palatricoli, specie per una squadra come la nostra, che da 4 anni questa squadra, i ragazzi da 10, si allenano al Pala Ignazio Cefalù, ogni forma di allenamento, ogni partita, qualunque cosa, anche lo scherzare in un ambiente perimetrale che è il basket, diciamo ormai sono a casa, si adeguano a ogni centimetro del parquet. Purtroppo al Palatricoli questo è difficile, per il semplice fatto che non ci sono punti di riferimento. anche i giocatori di Serie A del Barcellona, quando hanno visto il campo, hanno avuto problemi, infatti sono ricorsi mettendo i cuscini che loro hanno portato a bordo campo. Senza punti di riferimento è difficile per un giocatore di pallacanestro giocare bene. Parliamo dottor di questi punti proprio di riferimento. I giocatori su che cosa vanno a fissarsi, per carità, ma quali sono i loro punti di riferimento in particolare? Perché poi per noi profani i campi sono tutti uguali, Guardati solo un esempio. Purtroppo, ahimè, io ho parlato col dirigente della provincia di Palermo, una persona squisita, molto tecnico nel suo mestiere, e lui disse ciò che io dico da una vita per quanto riguarda il Palatricoli. Insomma, chi ha progettato questo campo di basket e di sport proprio era zero, per tanti motivi. Intanto abbiamo la luce che c'è nel tetto, cioè il tetto deve essere oscurato, perché un giocatore quando alza la testa deve guardare il suo punto di riferimento e deve essere solo il canestro, però questo purtroppo non avviene perché c'è molta luce e quindi quel ferro di colore arancione è difficile individuarlo, anche perché i fari sono mirati con una loro luce per renderlo ancora più colorato, e quindi è più facile individuarlo. Poi un'altra cosa importante: se noi andiamo al Palagnazzo Cefalù, vediamo i tabelloni che dietro c'è il verde del telone, quindi il tabellone di vetro automaticamente non si vede, si vede quell'oscurità che mette in risalto il canestro. Questo al Palatricoli non avviene assolutamente, infatti si vede solamente il ferro quando si vede. Tanto è vero che la prima partita i ragazzi nemmeno prendevano il ferro a volte. Ho capito. Purtroppo è un campo, il Palatricoli è bellissimo sotto tutti i punti di vista, però tutti diciamo una cosa giusta, bellissimo, ma tecnicamente purtroppo mi dispiace non è idoneo, non è idoneo per un motivo semplice, che poi attenzione, i rimedi si possono portare, cioè chi ha progettato questo palazzetto pensava di realizzare una chiesa, quelle vetrate, le vetrate devono essere al buio, assolutamente al buio, in modo tale che la luce, ripeto, non entri, non penetri in un palasport. E purtroppo, ripeto, questa è la burocrazia, questa è la politica, che quando deve realizzare queste cose, chi si assume le responsabilità se le assume, se sbaglia bene, se non sbaglia meglio, però bisogna veramente capire questo campo, bisogna regolare alcune determinate cose e poi sì che possiamo parlare di un campo non bello, tecnico, ecco. Parliamo belli, sono tutte le cose belle, ma tecnicamente questo campo ha tanti difetti cui devono essere regolati. Allora Totò, noi adesso ci fermiamo per un attimo perché abbiamo gli obblighi della pubblicità, chiaramente, poi torneremo a parlare, perché io vorrei capire, tu hai girato tantissimo, ma questa è una domanda a cui risponderemo dopo, sicuramente di palazzetti così grandi ne hai visti, però magari, come dicevi tu, tecnicamente idonei per fare pallacanestro o per fare qualche altro pallavolo, ma anche la pallavolo trova determinate difficoltà. Ne parliamo dopo, adesso per il momento andiamo avanti con il nostro programma e adesso pubblicità. E allora, tornati nuovamente in diretta dopo questa piccola pausa pubblicitaria, sempre qui a CRM con Santi Giannese Microfoni, ospite per il momento il presidente della S Zanella Basket di Cefalù, Totò Marsala, con cui continuiamo questo nostro discorso iniziato pochi minuti fa, e cioè parlando proprio del Palatricoli, perché Totò spiegava che tecnicamente questa struttura è stata fatta come palazzetto dello sport, ma effettivamente ci sono delle situazioni tecniche che non vanno assolutamente bene per giocare poi una partita di basket. E avevo chiesto se anche gli amici della pallavolo possono avere queste difficoltà quando fanno questi incontri loro del loro campionato. Allora Totò, andiamo a chiudere questo discorso. Abbiamo parlato del basket, ci hai spiegato benissimo quali sono i problemi che magari i ragazzi della nostra squadra possono trovare all'interno di questa struttura, ma anche la pallavolo o il calcio a 5 o qualsiasi altro sport ha questi problemi? Ma guarda, rispetto al basket ovviamente no, perché il basket deve tirare in un cerchio di 30 centimetri, quindi è molto difficile se non ha proprio dei punti di riferimento ben precisi. E il calcio no, perché a me lo penso, la rete è abbastanza grande e poi magari è un gioco meno veloce, anche se è veloce il calcio al 5. E il volley penso che, non lo so, così io ho giocato un po' a pallavolo anche. Il problema è sempre la luce sopra, insomma la base di tutto in fin dei conti è questa benedetta luce che viene da sopra, che poi in fin dei conti si può oscurare tranquillamente con degli adesivi scuri, basta montare un ponte, insomma un po' di buona volontà. Capisco che il problema al palasport tecnico, diciamo da un punto di vista strutturale, sono altri, va bene, però bisogna anche valutare i problemi tecnici. E secondo me intanto oscurando le vetrate, va bene, e già gran parte dei problemi si risolvono. Ma scusa, è così difficile oscurare queste vetrate? Anche perché poi alla fine non porterebbero disturbo nemmeno alle altre manifestazioni, perché e non si capisce, come dicevi tu, non dovevamo fare una chiesa oppure una sala congressi o chissà che cosa, ma un palazzetto dello sport dove la luce deve essere artificiale e non naturale, come ben hai infatti, precisato. Infatti hai detto bene, insomma io ho girato alcuni campi di Serie A, sono andato a palazzetto di Treviso, al Palaeor, che insomma è vecchio, e vedo, se voi vedete il tetto è tutto oscurato, sì, parliamo del Palaeor al tempo degli anni 60-70, va bene? Quindi ripeto, è stato proprio un errore madornale, un errore tecnico importante, va bene? Però, ripeto, si può risolvere. E ovviamente l'altro giorno è venuto il dirigente, che veramente è una persona in gamba, suo dirigente della provincia, che era disperato perché c'era una penetrazione di acqua e non riuscivano a trovarla, sempre per un problema strutturale. Va bene? E cioè, è stato fatto un tetto veramente ben fatto, attenzio, bellissimo, stupendo. Noi, cioè, ci voleva praticamente una persona competente che dava delle nozioni tecniche per fare quegli sport, quindi il calcetto, il volley, il basket, e non avere problemi come noi o altre squadre l'avranno. Ripeto, anche quelle del Barcellona, che ho parlato, hanno avuto problemi, i giocatori addirittura americani, appena hanno visto, dice, ma hanno avuto dei problemi al tiro perché non avevano punto di riferimento e per la luce al tetto. Bene, tu hai parlato di competenza, allora prima di cominciare a parlare di quello che è effettivamente lo sport giocato, allora io vorrei fare una domanda a Totò, perché lo conosco da tanti anni, soprattutto lo conosco da quando si giocava in quel campo che c'era in via Aldo Moro, l'oratorio, famoso oratorio, quando non c'era pallone, non c'era niente, ma c'era praticamente un rettangolo di gioco all'aperto, e dunque ai tempi quando si usavano i calzoncini corti che si giocava a basket e la canottierina, ecco. Allora Totò, dico, tu hai fatto il giocatore, hai fatto il dirigente, hai giocato in serie superiori, sei stato sempre un rappresentante, insieme a un'altra persona che voglio ricordare, Ignazio Cefalù, era un personaggio, non voglio dimenticare gli altri, da Terrasi e tutti quelli che hanno fatto un po' la storia del basket cefaludese, però dico, tu che hai fatto il calciatore, il dirigente, che sei ancora oggi in prima linea, ecco, ma non ti sei mai proposto, visto che parliamo sempre di problemi di sport, di proporti come assessore al turismo, sport, soprattutto sport, ecco, l'assessore allo sport sarebbe una funzione dove il nostro Totò, con l'esperienza che ha accumulato, potrebbe essere, senza nulla voler togliere all'assessore, non sto parlando del comune di Cefalù, ma magari in un altro comune, dico, ti è venuta mai quest'idea di poter proprio gestire lo sport in un comune, non diciamo Cefalù, in un comune, perché con la tua esperienza potresti fare tantissimo? Ma guarda, ovviamente non mi posso proporre io, senza nulla togliere all'amico Tony Cefalù, che veramente lavora. No, ma io l'ho detto in primis, sì, che sì, non sì, c'entrava sì, niente sì, questo sì, discorso. Cioè noi, insomma, se noi dobbiamo parlare di competenze tecniche nella gestione dello sport di Cefalù, insomma, come me ce ne sono anche altri abbastanza in gamba che possono veramente gestire. Io ti dico questo, io parlando con il mio amico vicepresidente oggi Michele Iuppa, che è veramente una grande spalla per me. Ho detto che io farò il presidente per della Zanella Basket, che è una creatura che io ho creato insieme, devo ricordare, Giovanni Maniscalco. Siamo partiti uno due da soli, e poi lui però per motivi di lavoro ho dovuto ritirare in un certo senso, anche se per me fa parte sempre del gruppo. E farò l'ultimo mandato da presidente per quanto riguarda la Zanella Basket, sono altri 4 anni e quindi sono 10 anni da presidente. Ovviamente rimarrò nella mia creatura, perché non la faccio, diciamo, non la lascerò mai, farò magari il presidente onorario, e non ti nego che ho diciamo delle idee di fare qualcosa di più per la mia città, sia sportivamente che anche altro, perché io, mi rincresce vedere questa città così veramente come la vedono tutti. Ovviamente le colpe non sono né del sindaco Rosario Lapunzina né di altri, e le colpe ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, chi ha portato questa città. E per quanto riguarda lo sport, ancora una volta si è dimostrato quanto sia importante per la nostra città, ma non importante perché la Zanella Basket, il volley, il calcio fa dei risultati. L'importanza è per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, fare sport. Fanno basket, fanno volley, fanno calcio, è importante che facciano veramente dello sport. Se tu consideri che noi abbiamo 160 iscritti oggi, e di questo devo dare atto, devo ringraziare molto l'amico Piero Morici, anche Giancarlo Lusponi, che quest'anno loro sono occupati di questo settore e egregiamente veramente lo stanno portando avanti in maniera professionale e molto impegnativo. Consideriamo pure i bambini del calcio, del volley. Insomma, dobbiamo renderci conto che lo sport è importante per la nostra città. Se domenica scorsa c'erano più di mille persone, addirittura custode mi ha detto c'erano 1500 persone che seguivano il basket, insomma il basket è importante, è un momento di spettacolo, un momento che forse la gente si scorda dei problemi, va al campo, al calcio, al volley o da noi e segue con animosità e con tanta sportività il gioco, e forse ancora veramente qualcuno non ha capito che bisogna non far morire lo sport a Cefalù. Ovviamente le società, i presidenti del calcio, del volley, io stringo la mano per i loro presidenti, perché so con quanto difficoltà portano avanti i loro obiettivi, portano avanti le loro squadre, e dobbiamo dire che siamo tutti a Cefalù nelle zone playoff. Addirittura Real Calcio ha vinto già il campionato, quindi rispetto a altre città tutto lo sport di Cefalù è veramente in alto, e non si può abbandonare, non possiamo lasciare la società a se stessi in questa maniera. Un campo di Santa Barbara purtroppo nella situazione in cui è il Palagnazzo Cefalù, diciamo che ha bisogno di essere ristrutturato per quanto riguarda i bagni, perché noi praticamente per ora non possiamo giocare perché i bagni erano vecchi, perché la struttura dal parquet alla struttura geodetica è perfettamente a norma, però ovviamente la burocrazia dice che bisogna avere dei bagni sistemati, se no l'agibilità non la danno. Ebbene, già ci stiamo muovendo, fuori faremo dei bagni puliti, un campo all'aperto, insomma cercheremo di rendere questo posto più bello, più funzionale, perché ricordo le parole che mi ha detto il sindaco: Cefalù non può fare a meno del Palagnazzo Cefalù. Bene, allora diciamo che adesso dopo il mandato magari chissà che non possa succedere che il presidente diventi anche una figura rappresentativa a livello sia locale che non locale, come politicamente parlando, ecco questo volevo dire. Sì, politicamente parlando non ti nego che ho voglia di lavorare per la mia città. Bene, tu hai parlato di successi, io vorrei aprire una piccola parentesi, perché i successi a Cefalù non arrivano soltanto dallo sport, ma è una cosa che mi riguarda personalmente. Io faccio un festival da 25 anni e visto che non lo abbiamo fatto in altre trasmissioni, perché in questo momento ci stiamo preparando a partire, caro Totò, perché noi abbiamo attraverso il festival che io faccio da 25 anni, che si chiama Astro d'Argento, abbiamo quest'anno fatto una semifinale al Castrocaro Terme, dove ho portato 4 ragazzini, e di questi 4 ragazzini, ne abbiamo una in finale nazionale, dove praticamente è l'unica rappresentante siciliana che gareggerà in questa manifestazione. Cioè praticamente sono 10 finalisti, una è nostra, insomma, a un certo punto, anche se non cefaludese, però proviene da questo festival che io organizzo, e dunque sono veramente contentissimo di questo. Dunque vedi, come vedi, la gente qui non è che manchi con le idee, con la possibilità di fare. Io vorrei anche dire che è tutto, anche noi siamo autogestiti, cioè noi non abbiamo strutture, fondi eccetera eccetera, ma ci autogestiamo e poi portiamo questi ragazzini a certi livelli. Bene, è quello che fa anche lo sport. Allora io mi auguro che Totò, perché quando si parla di assessorato al turismo, sport e spettacolo, cioè queste tre cose sono collegate, ma io veramente parlerei di assessore sport e spettacolo, perché sono le due discipline che si avvicinano molto di più. Certo, poi il turismo è una cosa più ampia, o sbaglio, Totò? Sì, sport e spettacolo, turismo, diciamo più che altro sport e spettacolo e tempo libero. Turismo, certo, è una materia importante oggi per Cefalù, che nello stato in cui si trova bisogna trovare veramente un grande manager che riesca a risollevare turisticamente la nostra città. E proprio detto bene, ci vuole un gran manager che riesca a risollevare la nostra città, perché se noi pensiamo che il turismo a Cefalù si risollevi così, stando seduti oppure aspettando chissà che cosa, aspettando dei finanziamenti regionali e provinciali che non arriveranno mai, non arriveranno mai, perché io noto una cosa, mi dispiace dirlo, ma ognuno pensa a casa sua. Bene, io vedo che la regione e la provincia, a volte purtroppo, ahimè, se ci vanno degli assessori o dei rappresentanti di amministrazione di altri paesi e fanno sentire la loro voce, bene, in quei paesi il turismo marcia, il turismo cammina. Ma prendiamo l'esempio di Taormina, ad esempio. Io vedo che ci sono grandissime manifestazioni a certi livelli. Ci sono grandi manifestazioni a certi livelli, e ti dico una cosa, io ho avuto modo di parlare con un assessore di Taormina, ma i tempi di Taormina sono ma molto più di noi. Però vanno avanti lo stesso, in un modo o in un altro. Io, o siamo noi che non riusciamo, non lo so, o è la città. Certo, io non do colpa al nostro sindaco, all'amministrazione. Insomma, noi dobbiamo farci un po' l'esame di coscienza, tutta la città. Cioè, Cefalù due teste non si possono unire. Bene, questo purtroppo è una realtà di fatto. Bene? E questo danneggia veramente la nostra città. Io ringrazio anche l'amico Fiducia che ci è venuto a trovare in extremis oggi, ha avuto il tempo di cambiare il pannolino prima, magari, no, sto scherzando, perché l'ultima volta al telefono mi ha fatto questa battuta: se riesco a cambiare il pannolino in tempo arrivo alla radio. Oggi quanto pare sei arrivato, se ti sposti un attimino magari così entri in quella telecamera, perché noi siamo in diretta su streaming attraverso CRM Epiradio.it e dunque avete visto che è arrivato l'amico Fiducia. Allora carissimo, sei arrivato. Buonasera a tutti. Sì, intanto buonasera a te caro, ben arrivato. Mi ha salvato la mamma. Ti ha salvato tua mamma oggi, benissimo. La mamma è sempre mamma. Vabbè, ok. Mi ha dato un quarto d'ora, 20 minuti. Guarda, noi riassumiamo un attimino quello che abbiamo detto con l'amico, ma tu già forse hai sentito, sì, attraverso sì, la radio. Devi sapere una cosa, io il martedì avevo un giorno libero, nel senso che non avevo impegni sportivi. Da quando è che tu fai la trasmissione, io mi sono preso l'impegno che alle ore 17 mi collego e mi sento un'oretta e mezza di sport a vari livelli, che poi diciamo sono sport che bene o male ho vissuto sia da... così da piccolo atleta, che anche da anche rally, che ho fatto qualche partecipazione, per cui per me sono tutte delle belle notizie che ricevo da voi. Allora facciamo così, ti faccio riprendere un attimino perché sei arrivato adesso, io mando in onda la pubblicità e dopodiché ritorniamo in studio e parliamo anche con l'amico nostro Fiducia che è arrivato proprio in questo momento. E allora eccoci tornati nuovamente in studio, e come al solito il nostro programma non parla soltanto di sport giocato, ma anche di sport vissuto nelle difficoltà, nel modo di portare avanti le società sportive, che a Cefalù devo dire veramente è abbastanza difficoltoso. E ne abbiamo parlato con Toto Passala, ma adesso parleremo anche con il nostro amico Fiducia, che ci è venuto a trovare. Parleremo di questa realtà nuova di Cefalù, questo calcio a 5, la Simegas Cefalù, che ha vinto con qualche giornata di anticipo il campionato, il proprio campionato, e l'anno prossimo sicuramente anche loro avranno delle difficoltà enormi, perché affronteranno un campionato intanto di categoria superiore, con le difficoltà sia economiche che anche tecniche, perché poi, come si diceva con Totò, abbiamo un impianto, vero, però quante società possono usufruire di questo impianto? Non è che bisogna avere un impianto dove giocare la domenica, bisogna avere anche l'impianto per allenarsi, bisogna avere delle strutture, una palestra, bisogna avere tantissime cose una società. E quando le società cominciano a salire di categoria, è chiaro che hanno bisogno anche di altre strutture. Ma ne parliamo con i nostri ospiti che sono in studio. Vi ricordo Toto Marsala, presidente della Zanella Basket Cefalù, è un come devo dire, è un rappresentante. Che la mia qualifica è responsabile del settore giovanile, ma poi alla fine sono un collaboratore, un dirigente. Un dirigente della Simegas, ma a me piace molto più il responsabile del settore giovanile, perché iniziare a crescere questi ragazzini è la cosa più bella che ci possa essere. Tu lo sai, io non nel campo sportivo, ma nel campo musicale ho a che fare proprio con i bambini, e cominciano a cantare a 8 anni, ed è una cosa stupenda. E quando ti posso poi assicurare che sono le più belle soddisfazioni e le più belle emozioni. Ne parlavamo poco fa con Toto, infatti io parlavo. Sì, ma io mi ricordo quando tu giocavi a calcio all'oratorio. All'oratorio, ti figura. Io non c'ero. Era. È stato un campione sfregato. L'Agli, Aveva già la maglia dell'Inter. No, assolutamente. Addirittura ti dirò che ho giocato un campionato. Era verde-nero. È un verde-nero, ma anche un campionato con la maglia della Juve. Pensa un po'. Allora Pierino, se era l'Agli c'era anche mio papà. Sì. Mio papà, Carmelo Liberto, Dino Liberto. No, quelli un po' prima. Ricordo erano verde-nero. Verde-nero. Bene, abbiamo fatto questi ricordi, ma nel sito di Cefalù Sport ho scoperto alcune delle foto di tanti anni fa, e in una c'era appunto con la maglia bianconera, mio malgrado. Va bene, parliamo invece di questi problemi assolutamente importanti, perché noi abbiamo voluto, ripeto, dall'inizio fare questo programma sportivo, ma soprattutto parlare sì dello sport importante, lo sport giocato, agonistico, ma anche di quello che è poi lo sport, i problemi che assillano le nostre società, in questo caso sportive. Poi ci sono tanti altri problemi a Cefalù, ma ci fermiamo noi allo sport, perché siamo a CRM Linea Sport. Allora, voi avete vinto il campionato di Serie D, l'anno prossimo vi aspetta un campionato molto più interessante, ma molto più difficile. Diciamo che dal prossimo anno cominciamo a vedere veramente quello che è il futsal, questa. Me l'hai spiegato. Il calcio a 5, in C2 già ci sono squadre, giocatori che vengono dalle categorie superiori, ma sicuramente gente che ha già anni e anni di esperienza in queste categorie, per cui per il Real Cefalù sarà una nuova scommessa. Già da adesso in questi giorni ci stiamo cominciando a muovere per cercare nuove pedine, per vedere un po' di lanciare giovani. Infatti è partita una campagna "Vieni a provare con noi", per ragazzini che sono nel 95-96, perché noi abbiamo l'obbligo degli under, come ce l'ha anche il basket, in tutti i vari settori, però in C2 abbiamo l'obbligo di metterlo in distinta, e poi più avanti vai addirittura poi hai l'obbligo di metterlo in campo l'under, per cui tu devi crescere già da adesso un settore giovanile cui io sono il responsabile e mi sto occupando a tempo pieno di recuperare il più possibile forze e anche giocatori locali, perché voglio specificare questo, noi puntiamo sui locali. Giustamente qualcuno mi dice non sono pronti perché il calcio a 5 lo stanno scoprendo adesso, però noi dobbiamo fare in modo di farci trovare pronti. Hai accanto un presidente che ha messo in campo una squadra locale. Io non sapevo nemmeno che il figlio di Totò giocava a basket. Ma non e sei io solo. L'ho scoperto. Domenica molti me lo chiedevano, e questa è una cosa importante, perché se la gente non sa che quello è il figlio del presidente, vuol dire che il presidente non l'ha mai né detto né manco partecipato. Io, per me, sono in campo in quel rettangolo sempre sempre detto, sono tutti i miei figli e non si discute su questo. E ti dico che forse lui è il più pressato di tutti, perché ma se assolutamente, campo, quello sono sicuro, avendo un papà come te sicuramente. Io, primo, tu lo sai, per me l'educazione sportiva è la cosa primaria, non si discute, va bene? E vabbè, sono tutti uguali per me. Non posso dirti che Carmelo, perché io lo conosco già un paio di anni, perché ho frequentato il basket, è cresciuto parecchio. Io mi ricordo prima spesso si girava a guardarti, e ora invece non, durante la partita, pure che Totò gli dice qualcosa, lui è molto più maturo. È cresciuto anche come uomo, chiaramente. Domenica, per esempio, ha messo due canestri al limite. Che, sai, l'equilibrio delle partite, tornando alla partita domenica, spesso cambiano con piccoli episodi. Io ne sono più che convinto, la partita vive anche di episodi. C'è stato un episodio a fine terzo quarto, quando loro stavano recuperando, che Carmelo ha messo la bomba all'ultimo istante, che diciamo ha spezzato le gambe, e sono dei momenti importantissimi di una partita. Ma la cosa più importante è che non sapevo che in questa squadra c'erano i figli d'arte. Ecco, questo te lo stavo dicendo io. Insomma, abbiamo Fabrizio, figlio d'arte, Ignazio di Cefalù, Terrasi, questo è infatti, bello, perché c'è una generazione. Ma la cosa bella, lo sai qual è? Cioè, io sono tutti i pomeriggi al campo a vedere il mio settore giovanile, perché io lo seguo. Io seguo più forse il settore giovanile che la prima squadra la seguo diversamente. Io già ho pronti 10 giocatori che possono fare una squadra. Infatti, prossimo anno 2 giocatori già passeranno in prima squadra, e uno è figlio di Giancarlo Rosponi. Addirittura, diciamo, già la terza generazione. Esatto. Già sono pronti per entrare. Ma guai se non fosse così, Totò, sì. Perché non puoi tu prendere sempre gente di fuori e pagarlo un sacco di soldi. Voi avete fatto un bel vivaio inserendo una star, perché io la definisco per questa categoria una star, e fai il salto di qualità. Perché guai se tu dovessi andare a pagare altri 4-5 giocatori in questa stagione. No, allora, il Mazzara che viene domenica ha 6 giocatori da fuori. Adesso parliamo pagati. Proprio di questo. Allora, adesso andiamo, abbiamo parlato un po', poi finiamo i campionati e prima di iniziare la nuova stagione parleremo moltissimo di quelli che sono i problemi. Adesso poi vedremo quale campionato disputerà la Zanella Basket, quale campionato disputerà la Cefalù Calcio, della Simegas Cefalù già lo sappiamo, quale campionato disputerà la Costa Verde Cefalù di Volley, perché ancora è in corsa per entrare nei play-off. E potrebbe anche con una panchina cortissima, come mi parlava il presidente, potrebbe inserirsi in qualche discorso. Sai, lo sport è bello perché è imprevedibile. E dunque poi noi, prima di chiudere, di andare, diciamo, al mare, ecco, parleremo delle prospettive di tutte le società, magari insieme all'assessore allo sport, perché come dicevo poc'anzi a Totò, assessore allo sport, turismo, sport e spettacolo, io per me l'assessore dovrebbe essere lo sport e spettacolo, perché tutte queste competenze non riesce a gestirle. Sport e spettacolo, lo spettacolo e sport. Ecco, bravissimo, camminano di pari passo. Di conseguenza, dicevo, parliamo di sport agonistico. Allora, intanto andiamo a vedere la partita di domenica, Totò. Ecco, domenica praticamente noi incontriamo il Mazzara, che io ho sempre detto che per me è la squadra più forte del campionato, sia di tutti e due i gironi, come mi suggerisce giustamente Peppe. E noi Cefalù l'abbiamo battuta, a Mazzara abbiamo perso di 5 perché abbiamo giocato malissimo, ma non vuol dire niente. Noi qui a Cefalù anche l'anno scorso l'abbiamo battuta ed era pure una forza. Cefalù ci aiutava molto il campo, il tifo che erano a 2 metri. E giocare al Palatricoli è molto difficile perché, ripeto, il fattore campo si annulla almeno al 50%. Fortunatamente, ripeto, il pubblico è là presente, abbastanza numerosa, molto di più di quelli che vengono al Palegnazio. Però io avrei preferito, quello sì, io sono felicissimo di questo. Io avrei preferito però 500 solamente persone, ma giocare a Palegnazio contro il Mazzara. Però io sono molto fiducioso, perché i miei ragazzi sono imprevedibili. C'era l'allenatore del Mazzara che ha filmato la partita, e scendendo molto sportivamente mi ha stretto la mano, dice: Totò, complimenti, e dice, tu hai filmato la partita? Ebbene sì. E io poi con molta ironia gli ho detto: ma tanto ci se non vale niente, perché i miei ragazzi sono imprevedibili, ogni partita hanno il loro modo di giocare. E l'allenatore mi ha detto: sì, è vero Totò, hai ragione, io ho filmato, però sono convinto che loro la prossima partita giocheranno in maniera diversa. Questa è la forza della nostra squadra. Anche Ivan Drigo, allenatore dell'Aquila, quando è venuto a vedere la partita qua a Cefalù, noi giocavamo con il Mazara, lui mi disse: questa è una squadra che cambia ogni partita, modo di giocare, modo di interpretare praticamente il gioco, e sono imprevedibili, ma hanno una forza che è il loro cuore, che in tutto il campionato non c'è giocatore come i nostri. Abbiamo veramente dei ragazzi con un cuore così grande, e dopo una stagione da primi in classifica, sai, fare questo cambiamento di campo non è facile supportare tutto ciò. Ebbene, loro domenica con Licata, insomma, hanno dimostrato che sono lì presenti e quando vogliono non ce n'è per nessuno. Allora, archiviata questa partita con il Licata, che abbiamo messo già da parte, ormai Licata nel dimenticatoio, si è vinta la partita, parliamo appunto del Mazara. Dicevi, hanno sei giocatori da fuori, vogliamo un po' parlare anche tecnicamente di questi giocatori che andremo ad affrontare domenica alle 18 al Palatricoli. Ricordiamoci tutti quanti di essere presenti, perché dobbiamo sostenere, dobbiamo essere il giocatore in più in campo insieme ai ragazzi di Totò. Ma guarda, sono sei giocatori che tecnicamente veramente sono forti, e hanno un buon allenatore, una bella dirigenza, ma a noi non fanno paura, siamo noi che facciamo paura. E noi io aspetto, in questo momento c'è Terrasi che queste due partite ancora non si è adeguato bene al campo, fare dire, ma se Terrasi entra in partita come suo solito giocare, il Mazara avrà vita dura. La squadra portata avanti da Fabrizio, da Angelo e da tutto il resto, praticamente non hanno paura, ripeto, di nessuno, sono gli altri che hanno paura di noi. Se giochiamo bene, se giochiamo come sappiamo giocare, e con questo maestoso pubblico, bene, io penso che ce la possiamo fare. Bene, tanto poi come di consueto la terza ce la giochiamo in casa, dovesse andare la proprio bella, male ce la male, giochiamo male. In casa, ma vediamo, il mentale è sempre gara 1. Sì, esatto, infatti l'importante è proprio quella di domenica, dove noi dobbiamo rompere il ghiaccio subito alla grande, portarci in vantaggio e poi si vedrà. Poi ce la giocheremo. Io penso che comunque dopo la partita di Licata il Cefalù è uscito molto molto più forte, perché sai, la sconfitta non porta mai bene, la sconfitta porta sempre dei brutti pensieri, delle tensioni, che anche se quando tu sei convinto di vincere, sei più forte, ti porta sempre un po' a pensare. Ma soprattutto quella partita, perché noi l'abbiamo seguita in diretta qui dalla radio con Ciccio Delise e con Enzo Terrasi, che poi faceva il corrispondente da Licata, e c'è stato un periodo, un momento in cui il Cefalù aveva preso quasi il largo, cioè sì, si era portato in vantaggio alla grande, a più 18 siamo andati, dunque poi siamo crollato un pochettino, ma era naturale questo. Sono le caratteristiche del Licata, perché io sono convinto che questa squadra è Licata, qualcuno mi ha detto no, ma sai, il Licata per me è una bella squadra. Allora, io il Licata lo sai perché non è arrivata prima nell'altro girone, perché il Licata si è rinforzata dopo, perché se questa squadra partiva così per com'è, il Licata arrivava prima. Diciamo magari qualche altro innesto, magari erano 6-7 contati, esatto, qualche altro cambio. Io ho visto un buon playmaker, ho visto un pivot che si sa muovere, ho visto Manettini per esempio, una bella squadra, Stanga, tutta gente di categoria che ha messo in difficoltà il Cefalù, cioè questi non hanno mai mollato, e questo è fondamentale nel certo basket, non mollare mai, certo. E noi la vittoria vale doppio, perché anche quando noi siamo andati più sopra di 20, loro stavano riaprendo la partita, e lì si vede effettivamente la forza di una squadra, quella di riuscire a reagire anche quando nei momenti un po' più di relax. Anche se in diretta poi c'era Enzo che diceva che i nostri hanno avuto anche un piccolo calo fisico, perché insomma sì, questo ovviamente un po' di stanchezza c'è stata anche da naturale parte dei ragazzi. Diciamo che è un calo psicofisico che noi abbiamo avuto, che i ragazzi hanno dovuto sostenere. Va bene? Però sì, ha ragione, questo calo fisico c'è, in fin dei conti, insomma, ricordiamoci, ci sono 7 giocatori, insomma, poi siamo là. C'è da dire anche che io ho visto gli scorrere del Mazara, di tutte le squadre che sta affrontando i semifinali, è quella che ha vinto più nettamente, è quella che ha i tabellini migliori, le percentuali migliori, anche se, ripeto, io mi occupo di calcio a 5. Vabbè, ma io sono hai ragione, messo su internet, guardo, perché io seguo lo sport cefalese, per me Cefalù. E allora ora parleremo anche di Cefalù Calcio, perché ho visto anche la partita l'altro giorno. Ecco, adesso ne parliamo insieme, perché purtroppo io non ero presente al campo, così ne possiamo parlare, io visto che tu l'hai tempo, vista. Il primo tempo ero occupato. fatto, ecco, sempre sì, sì, sempre quel discorso là. Ha portato fortuna. Totò, invece andiamo a vedere nell'altro girone. L'altro girone, l'Aquila, Palermo, continua. Allora, a... sì, sì. Vabbè, l'Aquila è arrivata. L'Aquila ha sofferto parecchio contro il Siracusa. E addirittura la bella Palermo erano a meno 17. Hanno dovuto fare un recupero impressionante. Siracusa aveva un giocatore fortissimo da B1 che gli teneva la squadra. E poi crollò e l'Aquila ha prevalso e ha vinto la partita. Il Porto Empedocle noi l'abbiamo, ci abbiamo giocato contro quando abbiamo fatto le finali di Coppa Sicilia, e mi ricordo quella partita abbiamo perso i 10 punti a Porto Empedocle, ma in quella partita mancava, non c'era mio figlio che era in Germania, i ragazzi non erano pronti a affrontare per tante situazioni, venivano dalle feste, quindi diciamo giocavamo in casa loro e quindi abbiamo preso, però abbiamo tenuto abbastanza bene la partita e non abbiamo paura del Porto Empedocle. Allora, io non ho paura del Porto Empedocle, io ho solo paura di una squadra, questa squadra si chiama Mazara, delle altre sì, Aquila che è Porto Empedocle, che non ho paura assolutamente. Che purtroppo per gli incroci abbiamo dovuto incontrare, perché purtroppo, è stata la forza del campionato, esatto, se invece esatto. Era seconda, l'avevamo dall'altro lato, esatto. E noi, proprio i giochi, purtroppo anche durante la griglia dei playoff è importante anche per questo. Io gioco, io ho un sogno. Voglio incontrare l'Aquila in finale. E questo io lo per i motivi miei personali. Questo lo immaginavo sì, io. Guarda, io spero di incontrare l'Aquila perché devo dare una risposta. Ma come la vedi invece quest'altra semifinale fra l'Aquila e il Porto Empedocle? Ma io penso che passerà il Porto Empedocle perché... Allora. Là non è difficile vincere a Porto Empedocle perché, ripeto, hanno un campo intanto molto piccolo, un pubblico che è diciamo molto caldo, va bene? E là veramente, quella veramente è una fossa, cioè quello è un campo non da omologare, da chiudere proprio. Bene, se noi consideriamo che la linea di 3 punti si tira, non si può tirare da 3 punti perché si tocca la linea di fondo, sì, diciamo che è un campo incredibile. E allora, tu pensi allora questo scontro finale? Ma non si sa, vedremo. Qua siamo. Beh, vediamo, adesso intanto facciamo una pausa perché abbiamo un po' di pubblicità da ascoltarci, ritorniamo di nuovo in studio fra poco, parleremo e cominciamo a parlare anche della bella vittoria della Cefalù Calcio che adesso si gioca tutto con il Rocca di Caprileone nella prossima partita. E allora linea alla pubblicità. Invidio i soldi, la capacità di ascoltare con il cuore, ma invidio i ciechi, la capacità di guardare sempre un po' più in là. Invidio i muti, la capacità di dire tutto con uno sguardo. Io che ho tutto al mio posto invece non vedo, non sento e non dico altro. Se il mondo fosse cieco ascolterebbe musica due volte tanto, non avresti pregiudizi verso qualcun altro. Tutti siederebbero allo stesso tavolo, tutti starebbero se stessi e non quelli che appaiono. Se il mondo fosse sordo dimostrerebbe amore con i fatti e non con le parole. Se il mondo fosse muto non direbbe le bugie, sarei sincero con me stesso anch'io senza le mie. Se il mondo non avesse il tatto, baby, tu ed io saremmo più insensibili a uno schiaffo e più sensibili a un addio. Se il mondo fosse senza odore, ok, non mi farei ingannare dal profumo della vita che vorrei. Se il mondo fosse cieco sarei Stevie Wonder, se il mondo fosse sordo sarei Beethoven, se fosse cieco gli guarderei le pupille, tra la verità e negli occhi come in bocca dopo 10 pizze. Io casca la terra e casca il mondo, e se il mondo fosse cieco non potrebbe vederci che andiamo a fondo. Se fosse muto non potrebbe chiedere aiuto, se fosse sordo non sentirebbe il dolore, punto. Forse la vita è il bene più caro, se il mondo fosse un regalo, se non contasse quanto denaro, se il mondo fosse un regalo, se Dio camminasse tra gli uomini, se il paradiso fosse qui, se il mondo fosse un regalo, forse la vita è il bene più caro, se il mondo fosse un regalo, se non contasse quanto denaro, se il mondo fosse un regalo, se Dio camminasse tra gli uomini, se il mondo fosse un regalo, se il paradiso fosse qui, se il mondo fosse un regalo. Se il mondo non fosse cieco lo saprebbe che è rimasto a buio, che dentro è marcio come un frutto nel sole di luglio. E non vi sembra assurdo che se il mondo ci sentisse ammetterebbe che la maggioranza è triste invece di mostrarci senza tatto, che Galileo si sbagliava di fatto perché il pianeta è piatto. È da mo' che il mondo ha perso il gusto, forse Gesù era solo un uomo giusto, forse Gesù era Woodstock. Se il mondo fosse nostra madre potremmo stringere proteggerlo più forte smetterebbe di tremare. Vorrebbe bene ad ogni figlio in modo uguale. Potrebbe dire alle città di smettere di fumare. Fumare. Se il mondo fosse cieco non vedrebbe il sole, ma darebbe più valore a tutte ste parole. Sarei meno attaccato ad ogni cosa materiale, sarei meno distaccato, sai che ti saprei ascoltare. Se il mondo fosse muto parlerei col corpo in un minuto, capiresti se ti sto chiedendo aiuto. Se fosse sordo non saprebbe quanto fa la musica. A volte una canzone salva delle persone. Forse la vita è il bene più caro. Se il mondo fosse un regalo. Se non contasse quanto denaro. Se il mondo fosse un regalo. Se Dio camminasse tra gli uomini. Se il paradiso fosse qui. Se il mondo fosse un regalo. Forse la vita è il bene più caro. Se il mondo fosse un regalo. Se non contasse quanto denaro. Se il mondo fosse un regalo. Se Dio camminasse tra gli uomini. Se il mondo fosse un regalo. Se il paradiso fosse qui. Se il mondo fosse un regalo. CLM. E allora eccoci tornati nuovamente in studio con i nostri ospiti, sempre con noi abbiamo Totò Marsala, presidente della Zanella Basket Cefalù, abbiamo l'amico Fiduccia, non solo rappresentante del responsabile del settore giovanile della Simegas Cefalù Calcio a 5, e come lo chiama lui in un altro modo, io preferisco Calcio a 5 perché siamo cefaludesi, caro mio. Lo so, ma intanto ci hanno messo anche questa però il nostro amico Fiduccia è anche un appassionato di automobilismo, e noi abbiamo in diretta una persona, un personaggio che tu conosci sicuramente. Pronto? Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori, a voi e all'amico Fiducia. Buonasera Rosario. Ciao, buonasera, Rosario. Grazie. E allora Rosario, oggi siamo orfani di Angelo che non è venuto in trasmissione, ma abbiamo la tua voce che ci conforta, perché è meglio di Angelo, guarda, alla fine poi abbiamo un professionista del settore. No, sto scherzando. Mi fa piacere che Angelo non sia potuto venire, lo dico con molta sincerità, perché sta facendo quello che è il suo lavoro, quindi sta tenendo alto, tra l'altro, delle Madonie in un ottimo contesto, quindi sì. Bene così vuol dire che lo hanno chiamato per delle cose importanti. Ho letto nel giornale questo annuncio, guarda, so che sta facendo il suo lavoro. Sì, esattamente, da grande chef qual è, per cui... Ecco, prego, dimmi pure, ecco, ci sono io ti volevo mettere in contatto proprio con un esperto in campo automobilista, qual è l'amico Fiduccia, forse lui ti vuole fare qualche domanda, anzi sicuramente qualche domanda, dai. Rosario, molto volentieri. Ciao Rosario. Allora, un po' il punto sul campionato italiano, perché avevo sentito in radio qualche quindicina di giorni fa, perché la trasmissione si era fermata. Ci sono state delle novità in questi 15 giorni? Ci sono state le novità, è uscita una notizia proprio di oggi che il campionato italiano si arricchirà di altre due Citroen C2 della scuderia VF Corse, quindi continuano ad arrivare queste vetture di classe R2 significa anche che queste nuove politiche federali stanno producendo delle reazioni. Pronto? È caduta la linea, adesso il nostro Angelo. Questa notizia del C2 mi fa ricordare e mi rende fiero di una cosa che ho fatto un paio di anni fa con l'amico dottore Damiani. Gli feci acquistare proprio una Citroen C2 e lui la comprò in configurazione A6, ci ho fatto un paio di gare, proprio perché io vedevo in quella macchina una macchina che poteva avere un futuro nel rally, nel senso, una piccola macchina che costa un'economia, diciamo, sempre relativa, ma che era molto divertente. Infatti conferma anche Rosario che queste macchine stanno entrando in prepotenza nel campionato italiano, diciamo che dovrebbero ridurre sensibilmente i costi rispetto a macchinoni tipo le Peugeot, le Super 2000, per parlare in termini tecnici, e sono delle macchine veramente veramente divertenti che con un budget magari un po' più ridotto possono permettere di fare belle prestazioni. Totò, com'è il tuo rapporto con l'automobilismo? Ecco. Totò ha corso, io ricordo, tutta verde. Vedi che io l'ho coinvolto in questo sport che mi piace tantissimo. Sì, ha fatto una targa, mi sono divertito tanto. Io sono un grande appassionato, come cognato Peppe, sono un grande appassionato di automobilismo. Tu facevi il pilota o il navigatore? Assolutamente il pilota, io non mi fido di nessuno, anche se è più bravo di me. Non conoscendo, conoscendo poi con chi era in macchina, non penso che avrebbe permesso di guidare. Assolutamente, io seguivo veramente la targa ai tempi di Munari, ai tempi di quando veniva una Cefalù, da sempre. Poi diciamo lo sport primario era il basket, ne sono rimasto, anche se gliel'ho promesso a mio figlio, vediamo, chissà. Anche perché Rosario ci ha confermato che a settembre ci sarà la targa Florio, cosa che praticamente di Cefalù a seguire, che poi sono la targa che era in forse in sì, però forse invece no, io Rosario ci ha detto che è stata confermata. Ecco, abbiamo ripristinato il collegamento con Rosario. Pronto? Sì, eccomi, chiedo scusa a tutti, ma c'è stato veramente caduta di colpo la linea, c'è stato un autentico blackout della linea. Adesso fortunatamente siamo di nuovo in contatto. Benissimo, stiamo parlando della Targa Florio con un nostro amico che forse anche tu conosci, il presidente della Zanella Basket, Toto Marsala. Non so se conosci, è appassionato anche lui di automobilismo, forse non vi conosce. Naturalmente, sì, e poi se state parlando di Targa Florio, automaticamente si è amici. Ah, ho capito, perfetto. Allora, io ritorno la parola a Peppe che stava parlando con Rosario proprio di Rosario, dicevo poco fa, due secondi, che è proprio quella pecchinina che tu hai nominato. Io due anni fa la feci acquistare a un amico a Cefalù in versione in C2 A6, ci ha fatto un paio di gare, per cui mi sento un pochettino anche orgoglioso di quella scelta. Sto vedendo che queste C2 stanno trovando parecchio spazio insieme alla novità della Peugeot quest'anno, confermi, vero? Naturalmente, ecco, sì, e beh, se noi pensiamo che la Peugeot sta impegnando su questa categoria niente poco di meno che un pluricampione come Paolo Andreucci, la squadra ufficiale, e stanno sviluppando non solo la macchina ma anche gli pneumatici Pirelli, come tutti sappiamo, per questa tipologia di auto, vediamo che è una categoria in grande fermento. Ora, naturalmente è una categoria alla quale la federazione guarda come futuro, non tralasciando le altre, però come hai detto tu, qualcuno ha visto molto lontano, tra questi anche tu naturalmente, perché già due anni fa hai visto bene su questa vettura. Bene, lo hanno fatto anche le case, e vediamo che è un po' la categoria dove viene catalizzata maggiormente anche l'attenzione della massima serie tricolore come il campionato italiano. Poi trofeo Citroen per le DS, per le C2, il trofeo Peugeot, la Peugeot di punta. Non possiamo che auspicare che si allarghi questa categoria, vista anche che non ci sono dei costi spasmodici come nelle altre. Io ricordo pure un trofeo, lo ricorderai anche tu, che cui partecipammo due piloti cefaludesi, io e Giuseppe Guercio, organizzato sempre in parallelo con l'AVF, con l'R1 Competition, con queste macchinine in configurazione quasi R1, che diciamo che è la categoria base dei nuovi regolamenti. E purtroppo questo campionato ebbe solo un'edizione e poi non andava avanti, ma mi ricordo con circa 15.000 euro riuscimmo a fare quattro gare, di cui una che era doppia, che era da Cafè. Ci siamo divertiti veramente tantissimo, forse sì, è veramente sì, mi ricordo perfettamente. Ecco, vedi, anche lì posso dire che la federazione in questa direzione ha continuato a guardare. Naturalmente tutte le cose devono avere uno sviluppo, e anche questa ha avuto un suo sviluppo. Pensiamo al trofeo Suzuki, ci sono degli siciliani che stanno facendo il trofeo Suzuki, per esempio mi viene in mente un messinese, perché mi trovo in questo momento a Messina per lavoro, un messinese come Sergio Denaro, e con la Suzuki in configurazione addirittura Racing Start, e poi c'è la configurazione Gruppo N, stanno facendo questo trofeo. Quindi questi trofei non chiamiamoli low cost, ma sono dei trofei promozionali, perché non è che siccome costano un po' meno ci vuole meno impegno, ci vuole altrettanto impegno, ci vuole altrettanta abilità, e tu che sei un pilota sai benissimo di cosa sto parlando, ci vuole altrettanto impegno nel prepararsi. La preparazione Non ci vogliono delle cifre esagerate come quando poi si vanno a guidare delle vetture di punta per puntare alla vetta delle classifiche. Per esempio bloccare le gomme, cioè l'utilizzo delle gomme, ogni parco assistenza non cambiare gomme, vale per tutto il trofeo, è importante, perché quattro gomme, quattro parco assistenza sono 16 gomme, 16 gomme già hanno un costo. Giusto quello che dici tu, ma anche in questo la politica, adesso non voglio per forza a tutti i costi giustificare fare e promuovere quello che ha fatto la federazione, però come vedi si sta ad ascoltare quello che bene o male anche dicono i piloti e quello che dicono le squadre, le tendenze del mercato. Si è innanzitutto limitato il numero di gomme, però questo, voglio dire, non è solo un fatto di costi. Se noi parliamo con qualche pilota che addirittura ha più anni di noi, quindi quelli, come si suol dire, della vecchia guardia, loro non fanno altro che ribattere su una cosa: ah, voi adesso ogni parco assistenza cambiate le gomme, ai nostri tempi con un treno di gomme facevi mezza stagione. Ecco, per cui c'è anche un discorso di mentalità di formativa del giovane pilota. Non so se è chiaro quello che dico. Sì, effettivamente quello che dici sono parole sante, e infatti quando uno va a competere con determinate categorie trovi quello che ha la disponibilità economica di cambiare quattro gomme ogni parco assistenza, una gomma nuova rispetto a una gomma vecchia sono decimi se non secondi e chilometro, che su una prova speciale di 12-13 chilometri già sono un bel pacco di secondi che ti sei portato solo per le gomme. Per cui quello è anche lì c'è il risvolto della medaglia, il rovescio della medaglia, perché un pilota esperto che sa guidare con la gomma in crisi, qualora si verifichi qualsiasi tipo di problema, ebbene la macchina la sa fare andare anche con una gomma non perfettamente in forma. Il pilota che invece è stato abituato ad avere quattro gomme nuove a prova speciale, qualora si verifichi un problema non saprà mai guidare nello stesso modo. Infatti. Bene, allora senti, parliamo per chiudere questo nostro intervento telefonico con Rosario, che spero avere quanto prima qui in studio prossimamente, anche con questo discorso della Targa Florio, a cui è caro ai nostri amici in studio, allora Peppe e Totò, insomma, magari Totò lo vedremo insieme al figlio fare una Targa Florio, chi lo sa Totò? Non penso, perché a settembre inizia il campionato la Serie C, vabbè Diamond, nazionale, vabbè, ma non sapevo. No, io ho promesso a mio figlio, perché lui è proprio malato di corse, che faremo una gara, ci sei però come apripista. Anche lì Totò, ti devo stoppare, perché l'apripista che io l'ho fatto molte volte, grazie anche alla collaborazione che ho con lo staff della Targa Florio, richiede il certificato medico, richiede la socio ACI, richiede, cioè praticamente sei un pilota in gara. Okay. Questo è giusto, però comunque a tutti gli effetti. No, ma lui non è che voleva scansare. È un equipaggio che fa parte della gara, non voleva essere in gara, tutto qua. Allora Rosario, sì, parliamo di questa Targa Florio, ci sono delle novità rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti? No, nel senso che la macchina è perfettamente in moto, la macchina organizzativa, però ancora non ci sono delle novità di rilievo rispetto a quello che ci siamo detti. Ho parlato proprio la scorsa settimana con delle persone dell'Automobile Club Palermo, ma appena ci sono le novità, anche perché ho detto che c'è tutto un pubblico interessato, ce le faranno sapere senz'altro, quantomeno dal punto di vista ufficiale. Va bene, allora Rosario, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo, ti aspettiamo qui in studio quando vuoi, noi ogni martedì dalle 17 in poi siamo qui, e se ci sono delle grandissime novità puoi sempre intervenire sia di presenza che telefonica, va bene? A presto a tutti e buon proseguimento di serata, buon ascolto a tutti gli ascoltatori. Arrivederci Rosario. Allora, grazie, bene, ciao, salutiamo ciao. L'amico Rosario, noi invece adesso dobbiamo praticamente anche accelerare un po', perché il nostro Totò è da un po' che è qui con noi. No, alle 18 mi inizia gli allenamenti dei ragazzi. Ah, no, questo è importante, fra l'altro. Non mi lascio un minuto. Ecco, benissimo. L'importante è che non si sentano assillati però dalla presenza. No, da me assolutamente. Ah, perfetto. Anche perché domani penso che allora, allenate. No? Sì. No, domani no. Allora, domani no, primo maggio, insomma, voglio dire, lasciamoli un po' tranquilli, la birretta, come diceva Ciccio, facciamogliela bella tranquillamente, dai. No, sono ragazzi che sono lasciati tranquilli da noi, e certo i ragazzi vogliono che gli stiamo vicini e noi siamo vicini a loro. Senti, noi abbiamo parlato sempre dei ragazzi, ma dell'allenatore, del mister, abbiamo del coach in questo caso, perché nel calcio si chiama mister, da voi si chiama coach. Allora, non abbiamo parlato mai di questa figura, quando è che ce lo porterai qui? Lo capisco che per ora con gli allenamenti che ci sono è impossibile, però non abbiamo parlato mai di questo personaggio. è un personaggio importante. Il coach Fiasconaro. Il coach Fiasconaro, che quest'anno veramente ha fatto un gran lavoro con tanta pazienza, ha portato avanti questa squadra con molta professionalità. Devo dire, sono contento di lui, siamo contenti di lui. A volte si sbaglia l'umano maestro, come sbaglia il giocatore, sbaglia l'allenatore, sbaglia il presidente, il vicepresidente, il direttore sportivo. Però ti posso dire che gran parte di meriti ce l'ha lui. Allora diciamo che quanto prima, appena festeggiata la promozione, ce lo porterai qua insieme anche ai giocatori della squadra. Questa è una promessa che spero il nostro Totò manterrà, ma anche se non dovesse andar bene, noi vogliamo fare una puntata speciale proprio sul basket con il coach, con il presidente, con tutta la dirigenza e possibilmente anche con i giocatori. Io penso che noi abbiamo vinto, certo, vincere il campionato sarebbe veramente il massimo. Noi ovviamente puntiamo a vincere il campionato, su questo non ci piove, però dico, abbiamo vinto la regular season, stiamo affrontando i playoff in maniera un poco penalizzati, poco. Io non sono di quella, assolutamente. Noi scendiamo in campo al Palazzo Agricoli per vincere domenica e vincere eventuale finale. E comunque, o vinciamo o non vinciamo, la grande festa la faremo. Ecco. Siamo arrivati fra i primi quattro, quindi significa già C nazionale. Anche se il presidente della federazione mi ha chiamato dicendomi che noi abbiamo il pubblico, parliamo di C2 più imponente e maestoso di tutta Italia, parliamo di serie C2. A livello nazionale, il nostro pubblico non esiste paragoni con una salto di C. Quindi, per questi meriti, e grazie al pubblico, noi, anche se arrivavamo quinti, sesti, settimi, praticamente eravamo in C nazionale. Allora faremo noi una trasmissione in diretta, comunque vada, è stato un successo, dove praticamente in quell'occasione faremo una puntata di CRM Linea Sport proprio dedicata alla squadra di basket, e in quell'occasione avremo modo di sentire, di ascoltare i giocatori, l'allenatore, il presidente, i dirigenti e anche i tifosi. E anche i tifosi, che per non lo faremo qua sicuramente, perché non ci andremo tutti, ma troveremo, anzi il presidente troverà la location e noi ci trasferiremo con i nostri potenti mezzi per fare questa trasmissione magari speciale. Ma sai, io la vorrei fare la festa con tutte le squadre di Cefalù, che veramente quest'anno meritano tutte le squadre, i dirigenti che veramente hanno portato avanti, hanno portato, sì, infatti l'ho detto prima che venissi tu, i sacrifici che fate voi, il volley, il calcio, sono veramente imparagonabili. Ma infatti lo fate... Totò, ti rubo solo due minuti, sì. Perché poi andremo in pubblicità, poi sì, tu sì. Hai i tuoi impegni, anche perché devi andare a seguire i tuoi ragazzi. Vorrei parlare proprio anche con te presente di questo successo, bel successo della Cefalù Calcio, soffertissimo, sulla Spadaforese per 2-1, continua il sogno. Dunque, Peppe, tu che sei stato presente, noi purtroppo per impegni di radio io non ero presente, ma ero in continuo contatto, davamo i risultati minuto per minuto, il risultato lo davamo sempre in tempo reale. Dunque 2-1 questa vittoria. Sono arrivato il secondo tempo, presidente Salvo Cimino, che sarà contentissimo. Salvo Cimino è veramente una persona eccezionale, guarda, è venuto a vedersi la partita domenica scorsa, era lì dietro la panchina. Io purtroppo soffro un po' di allergia alla polvere ed è difficile che io possa andare là sopra, anche se mi piace, perché il calcio l'ho seguito da sempre. Spero che vincono anche loro, così vincono loro, ha vinto il Real Calcio, veramente, almeno speriamo che vinciamo pure noi. Un anno, me lo aspettavo, Totò. Un anno storico, Cefalù, che si vinsero tutti i campionati, se non ricordo fu l'anno 2000, quando il basket salì in B1, il Cefalù Calcio, diciamo all'epoca Cefaledium, andò in Serie D, la pallavolo fu un anno fantastico. Sì. Io, ma non lo so, questo sia anche un anno. Ma guarda, l'anno fantastico, io lo dico, è stato, attenzione, bello anche gli altri anni. Però sai, c'è stata una persona che mi ha fermato e mi ha detto una cosa bella. Dice, voi quest'anno, l'anno scorso, queste società sportive che stanno portando avanti il nome dello sport e del nome della società in una situazione economica disastrosa, perché c'erano i soldi, si poteva fare di tutto. Mi ricordo il comune già era il comune mezzo sponsor. Sì. Ti faccio un esempio, che la scuola elementare da noi pagava per venire là, esatto, e da due anni è a titolo gratuito, perché il comune purtroppo, ahimè, non ha disponibilità, e i 600 bambini fanno educazione fisica a Palagnano Ignazio Cefalù gratuitamente. Dico, anche questo era un introito che ci viene a mancare. Il momento storico non è indubbiamente paragonabile al momento del... Allora, io per impegni pubblicitari devo mandare subito in onda la pubblicità, ecco. E nel mentre saluto Totò che ci lascia per andare immediatamente a trovare i suoi ragazzi, poi chiuderò con Peppe parlando proprio della Cefalù Calcio e infine poi diremo che la volley, per quanto riguarda il volley, la Costa Verde Cefalù è in corsa per i playoff. L'ultima giornata sarà quella decisiva, dentro o fuori Esatto. Ok, grazie Totò. Volevo salutare a tutti e vi dico che venite domenica. Vi aspettiamo. No, adesso glielo facciamo fare. Vi aspettiamo calorosi e numerosi al Palo Tricoli alle ore 18. 18, vabbè, lo faccio io per Totò, ma no, perché grazie. È timido. E allora ancora in diretta per l'ultima parte di questo nostro appuntamento di oggi, vediamo di parlare adesso di calcio e con Peppe andiamo a valutare un po' quella che è stata la partita di domenica contro la Spadaforese, una Cefalù Calcio che era passata in vantaggio dopo 4 minuti con battaglia, poi raggiunta al 50esimo da una rete di Compagno, ma è alla fine al 93esimo ed è esploso veramente il campo comunale di Santa Barbara grazie alla rete messa a segno da Gelaci. Allora Peppe, tra l'altro eravamo rimasti anche in 10 uomini contro la Spadaforese. Ho interpretato un fallo di un giocatore del Cefalù Calcio, un po' magari secondo me era da cartellino, il famoso cartellino a metà fra sì, giallo sì, e rosso, l'arancione. Solo che alle volte arancione, infatti alle volte gli arbitri così valutano il fallo magari un po' più grave e hanno espulso il Cefalù rimasto in 10, per cui quando tutto diceva che erano tempi supplementari e il pareggio poi avrebbe premiato il Cefalù, però sai, sì, giocare supplementari, l'ansia, i minuti che non si la stanchezza e cose varie, se passi... diciamo che l'epilogo migliore non poteva essere quello che all'ultimo minuto, proprio perché l'arbitro sul gol poi spalla a centro ha fischiato la fine. E devo dire che la Spadaforese il secondo tempo, forse galvanizzata da questo piccolo infortunio difensivo fra il giocatore del Cefalù Calcio e il portiere, la palla giusta, colpita da un giocatore del Cefalù termina all'incrocio dei pali, si è galvanizzato, ha incominciato a giocare, ha cominciato a rimanere un po' sulla, diciamo, metà campo del Cefalù, pressandoli e mettendoli un po' in difficoltà. Però devo anche dire sinceramente che Alessio, il portiere del Cefalù, non abbia mai registrato nessuna grande parata, anche in 10 uomini, il Cefalù, diciamo, che ha riuscito a controllare un po' la gara. Poi mister Minutella, che tra l'altro era squalificato, era sugli spalti, ha effettuato un paio di cambi inserendo Zangara, che è entrato subito in partita, ha fatto un paio di passaggi e proprio il gol nasce su una sua, un passaggio in aria al giocatore del Cefalù, adesso non ricordo il nome, Gelaci, che ha segnato, che ha preso la palla diciamo di controbalzo e in una mischia l'ha depositata proprio sull'angolino. Immagino la gioia, la gioia incontenibile dei numerosi tifosi cefaludesi e anche della Spadaforese, che erano intervenuti per vedere questa bella partita. Indubbiamente adesso la partita si svolge sabato, ho letto almeno dei comunicati e so che anche hanno organizzato un pullman per portare gente a Capo d'Orlando. Io quest'oggi avevo invitato qualcuno della dirigenza, ma sai com'è, quando ci sono queste partite poi si chiudono, anche perché sicuramente Santi, ci sarà stato allenamento. Io capisco, perché ti spiego, avere una partita importantissima richiede uno sforzo dirigenziale non indifferente, perché mettere a posto una squadra non è solo il mister che dà le maglie e dice tu fai alla destra, tu fai, no, è la settimana che ti porta poi al compimento della partita, per cui la dirigenza deve essere presente agli allenamenti, ci può essere quel piccolo inconveniente, allora magari c'è quello che gli fa male un po' la gamba, si porta subito a vedere dal dottore, cioè queste cose sono, per cui questa settimana io li capisco, e poi domani tra l'altro è pure festa, per cui sai, oggi si allenavano, sì, oggi lavoreranno, festa, poi c'è giovedì, venerdì sarà una rifinitura, sabato giocano a Capo d'Orlando. Ecco, fuori. Ecco, fra l'altro diciamo che giocano a Capo d'Orlando questa partita. Sembra sintetico, se non sbaglio. Sì, è un campo sintetico, ecco. Lì adesso bisogna vedere i nostri ragazzi, ma anche il Rocca di Caprileone non è abituato al sintetico, perché loro non hanno giocato in questo campo durante il campionato. Però io penso che Rocca chissà quante amichevole avrà fatto in quel campo. Beh, sicuramente faranno anche gli allenamenti. La scelta non è, faranno non anche gli allenamenti, non è ponderata, cioè poi sicuramente avranno fatto una scelta in base a dei sicuramente questa loro... settimana faranno gli allenamenti aggiornamenti proprio su quel campo per essere pronti e preparati a questa partita. È una partita, una finale è sempre una finale. Loro hanno il vantaggio di avere due risultati, il pareggio e la vittoria, oltre 120 minuti, se speriamo di no, finisce in parità, passano loro. Sì, purtroppo la classifica poi è quella che determina queste anche cose. Perché sappiamo il Rocca, poveraccio, noi è stato intanto beffato. Ecco, intanto pensiamo al Rocca di Capoleone, che praticamente all'ultimo secondo della partita con l'Igea Virtus è un thriller, dopo un campionato che sempre ha condotto avanti. Sempre avanti. Fra l'altro c'è stato un momento a 2-3 giornate dal termine dove i giochi si potevano anche risolvere in favore della squadra del Cefalù, ma il malaugurato pareggio di Collesano ha condizionato poi tutta la fine della finale del campionato della squadra cefaludese. Comunque indubbiamente io comunque non so loro come sono partiti quest'anno, o meglio, da quello che ho sentito dire, non penso che loro erano partiti per vincere. Assolutamente no, salvo Cimino voleva fare un campionato di transizione in modo da assicurare, per quel poco che io conosco i giocatori che ci giocano, e che sono tutti giocatori di categoria. C'è un Villafranca, un Geraci, un D'Amico, un Milia, un Calabrese, tutta gente navigata, anche dimentico qualcuno, ma non per tutta gente navigata, cioè gente che i campionati li conosce e che magari se partiva dall'inizio con c'è un altro tipo di magari di mentalità, assemblamento. Mentalità, forse il risultato sarebbe stato un pochino diverso, però sai, sei lì, ormai sei lì, cioè non è, comunque non cambia tanto, secondo me, come hai detto anche qui in studio, si è sbagliata quella partita. Poi forse dopo la partita di Collesano c'è stato un attimo campionato ci sono sempre quelle partite che tu sbagli, ma comunque è fisiologico, non è che la cosa più bella è che praticamente noi a Rocca in trasferta vincevamo 1-0 e poi ci sono stati tra un infortunio, se non vado errato, abbiamo perso una partita dove non meritavamo di perdere. Ciò ci conforta un po' il fatto. Il punto di forza è un giocatore che ben conosciamo, che è di Castelbuono, è un attaccante che è stato il miglior realizzatore del campionato marandano, che è uno che non perdona sotto porta, è uno che è freddo, è uno che ha fatto i suoi gol, per cui dovrebbe aver fatto hanno una bella squadra. Cioè, certo, per essere primi per molto tempo e perdere all'ultimo secondo un campionato non sono sicuramente gli ultimi arrivati, ma chiaramente noi però, la possiamo, ripeto, giocare. La pressione potrebbe essere, sai, loro vengono da questa sconfitta che brucia parecchio. Bisogna saper capire se la riescono a trasformare in poi forza. Fra l'altro si sono riposati 15 giorni in più, ecco, sono tanti fattori, hanno lavorato non lo so fino a che punto, sai, perché alle volte la tensione, tenere 15 giorni di tensione molto alta non è facile. Giocare ogni settimana è più facile per molte squadre, tenere la tensione alta, la tensione, tenere, sì, 15 giorni dopo quella sconfitta, perché sai, quella sconfitta brucia. Io penso che la ricorderanno per sempre, Rocca, 96esimo, dico, non bene, è. Allora noi poi martedì valuteremo anche questo speriamo campionato. Che sia un martedì come questo, ecco, un martedì come questo gioioso, un martedì, ecco, gioioso. Perfetto. Poi invece domenica ci sarà l'ultima giornata del campionato di volley, infatti noi siamo già quasi in chiusura della nostra trasmissione, ci sarà l'ultima giornata dove la Costa Verde Cefalù si gioca anche lei la possibilità di andare ai playoff, perché visti i risultati della penultima giornata adesso la classifica vede al primo posto ormai un irraggiungibile Agragas Agrigento con 73 punti, al secondo posto la Pallavolo Cutro di Crotone, e poi appaiate al terzo posto la Costa Verde Cefalù e la Golem Reggio Calabria con 50 punti, e qui se la giocano. Loro mi sembra che giocano contro la PAL, cos'è, Sicilia, non so, che è una squadra. Allora ti dico subito gli incontri di domenica: la Costa Verde Cefalù gioca fuori casa con la Pallavolo Sicilia Catania, che se non sbaglio è direttamente interessata nella zona retrocessione. Sì, non, e poi vorrei, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra. E poi abbiamo la Golem che gioca sempre fuori casa contro la Finnova Costanzo Siracusa. Sì. Per quanto riguarda la Pallavolo Sicilia Catania, ecco, si trova diciamo quasi nelle ultime posizioni. Ecco, si gioca forse anche un pezzo di rimanenza in questa categoria, anche se dietro poi dobbiamo dire c'ha la Domenico Savio di Messina 31, mentre la pallavolo Sicilia Catania a 32 punti, poi c'è la Gallico Reggio Calabria con 30, Barcellona con 20, beh, diciamo che alla fine sì, sarebbe uno su mille le possibilità che anche perdendo questa partita la pallavolo Sicilia Catania dovrebbe andare sì, giù. Io, se tu avevi concluso anche con la pallavolo, volevo solo tornare un attimino sul discorso del quello che più in questo momento mi appartiene, che è quello del Real Cefalù, per ricordare anche a un po' a chi ci ascolta e anche a chi ci ha seguito che il Real Cefalù in questo momento è impegnato anche con il suo settore giovanile, con i Pulcini, con i Piccoli Amici. Proprio ieri abbiamo disputato una partita contro il Castelbuono che ci ha visto vincere contro i pari età dei Piccoli Amici e Castelbuono, mentre ci ha visto perdere con i Pulcini. Poi anche i giovanissimi del Real Cefalù sono impegnati in un torneo amatoriale al Calanica, che è diciamo, un torneo che interessa persone molto più grandi, ma che noi abbiamo ritenuto opportuno iscrivere una squadra nostra tutta di ragazzini rinforzati per l'occasione da ragazzini cefaludesi che giocano sia nell'Aurora Rossa che al finale. E la prima partita si è persa di un gol, ma i ragazzi 98-99 parliamo, cioè proprio nemmeno da motorino, ma ti posso assicurare che mi sono emozionato e sono usciti tra gli applausi. E ti devo anche dire che c'è qualcuno di loro che promette veramente veramente bene, e questo è un messaggio che io voglio mandare a tutti i ragazzi cefaludesi a cui piace il calcio in generale, sia calcio a 11 che calcio a 5 o al basket. Questa, i ragazzi nostri di Cefalù li voglio più partecipi e più presenti nei campi, perché è bello stare in competizione, bello stare in compagnia, soprattutto bello stare in società come quelle che abbiamo a Cefalù, sane Cefalù, società che ti possono permettere di divertirti e di portarti anche a buoni livelli. E quello è un messaggio che noi, sia come Real, ma penso che sposeranno tutte le altre società, vogliamo mandare ai nostri giovani. Dare un calcio al pallone è più bello di stare seduto davanti a qualcosa, un bicchiere di alcohol, cose varie, esatto. Lasciamoli perdere. Il messaggio è quello: lo sport è vita, per cui noi ci teniamo parecchio, e ringrazio sempre CRM che dà la possibilità alle nostre squadre locali di farci conoscere sempre più e fare conoscere i nostri progetti e le nostre ambizioni. Grazie. Peppe, io ti ringrazio per il tuo intervento oggi qui in studio, così come ringrazio il presidente della Zanella Basket, Toto Marsala, che è andato immediatamente al campo a seguire i suoi ragazzi. Ringraziamo anche Rosario che abbiamo avuto al telefono e che molto probabilmente prestissimo avremo qui in diretta con noi a CRM in occasione di CRM Linea Sport. Niente, vi auguro un buon proseguimento con i programmi. Per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda è tutto, a risentirci alla prossima, ciao a tutti, grazie, arrivederci.